agganciato col PMR, quindi vai ovunque vuoi volendo, basta scaricare l'app e capito, e sei a posto. Ok, non è PRL, è appunto una radio visitante della stessa parola. Dunque, questioni di banda ci sono sempre. Io di tanto in tanto, anche i sabatieri, li stavo ascoltando su Roma 2, Roma 4, Bruxelles, Roma 4, ci sono e sono abbastanza numerosi anche, arrivano benissimo perché c'è qualcuno che trasla evidentemente e dunque si sentono anche al computer. Non so se tu l'hai guardato quel sito, scrivi web SDR e trovi senz'altro. Il computer non ce l'hai tu? Ne ho due, ma mi manca la linea wifi qui, quindi non me ne frega niente, capito? Ne ho due computer, non le sto usando, sto usando un telefonino che è molto più veloce, tutto, capito? C'ho la quello dove abito, quando c'ho l'app, se voglio parlare uso quello e ogni tanto qualcuno già si sente la stanza lì e anche la Cagliari. Lui se c'è adesso abbastanza di CB, posso parlare qua, parlare di là, solo che là già lo sai che c'è la stessa classe, 20-30 persone, a volte, se vai nel sito dove ci sono siciliani di Calabrese non entri più. Marco ti fanno entrare. E tu, la tua zona è una zona ultima, veramente eccellente per ricevere le onde radio. Per cui va bene, non c'è problema. Lì oltre che trasmettere è abbastanza lontano, ascolti anche da molto lontano. Non ci sono dubbi. Tu ascolti molto bene anche la acustica, vero? Va bene, la acustica, quando c'è gente la ascolto anch'io qua, non c'è problema. E ci posso anche parlare. Addirittura una volta ho avuto contatti col PMR, con l'amico di Sardi di Porto Torres, lui era al lavoro in acustica e ci siamo sentiti col PMR, le puoi immaginare. Ma sono magari casi sporadici, non è che sono collegamenti giornalieri eccetera, anche perché bisogna trovare la persona al momento giusto e all'orario giusto, non è che puoi pensare di trovare sempre certi collegamenti. Sul canale 10 in PMR sono i così cani. E questa è... aspetta. Poi c'è anche 118, 175, quindi questi canali qua parlano i francesi. Infatti, bello che io ho piazzato la X300 per sbaglio di me. Ormai c'è ancora due metri più giù da come si chiama e ho sentito la cosa. Cazzo, ho detto, è poco arriva forte. Sono andato a chiamarli e mi hanno risposto. Addirittura c'è sui 114, 110, c'è un ponte, fanno il ponte radio, c'hanno. Però non ho capito se è collegato in V o cosa diavolo è, tipo trasponder. La frequenza qual è questa, quella dell'acustica? Io, vabbè, tu hai la direttiva, tu per quello che sei, che magari mi fai sentire, parlando di PMR, ma io ho capitato una volta che c'era Sandro, c'era per lavoro lì in Corsica, nella zona più alta della Corsica, e lui lui ha chiamato, io l'ho sentito, l'ho risposto e l'ha detto, sono in Corsica, nella parte più alta della Corsica, e lo sentivo anche molto bene, e anche tu sentiva bene me, ma tu, vabbè, tu hai la direttiva, dunque l'appunti è diverso il discorso, io con Gommino suo originale non c'è problema, capito? Ah, addirittura ho spaccata, ce l'ho in terra nel terrazzino. Sto usando l'ex 300, è spaccata due metri più in giù della mandorla, capito? E quando l'ho installata, siccome la prima volta che l'ho usata non riusciva a farla funzionare, sia l'ex 30 che l'ex 300, ho detto non è possibile questa antenna qui, non è che non esca. Ho preso, ho smontato tutto l'ex 300, dopo i tabelli eccetera eccetera, perché c'erano dei problemi. Quando l'ho piazzata, controllo stazionale 0, sia in V sia in U, mi faccio una spazzolata con quell'apparecchio che c'ho qui, che dell'ex mio cognato, quello veicolare che c'è, cioè, canali immunizzati fino a 15-16 gradi in PNR, ma su 10 sento questi francesi, gli ho detto cazzo, arrivavano 9 di segnale, figurati. E trovato a chiamare, mi hanno risposto con l'ex 300, invece con la direttiva, quando usavo la direttiva, vedi, piazzata sotto la mantova, quando facevo girare il motore della parabola, puntavo al ghiero, sentivo i traghetti di cosa? Dalla parte di Alghero, parlavano in PMR, e così anche la promotore con la direttiva, sentivo quelli che parlavano dentro il traghetto col PMR. Ho capito. Com'era la frequenza della Corsica? L'hai detto poco fa, ma non ho capito bene. Che frequenza è quella che senti la Corsica? Aspetta che te lo dico. 446 106.25 446 118.75. 446 106 106, così hai detto? Sì, 106.25 e poi 446 118.75. 446 106.25 446 118.85, ho capito. Ma voi, per curiosità, se riesco a sentire qualcosa, ma adesso magari non trasmettono più, magari trasmettono nel periodo che siamo in piena estate, sarà per quello, fanno collegamenti anche marittimi eccetera, forse. Beh, adesso ho visto che non c'è nessuno. Dunque 118.75, non 85. Capito? E quindi adesso sono più che altro me, mi sto ascoltando 446 006, qui c'è, come si chiama, il saggetta, quello che c'è di appendanda, l'RSA. Aspetta che me lo sto scrivendo, mi sto scrivendo la frequenza. Allora, 446 106.25, così una. Ehi, all'altra è 446 118.75 118.75, così per curiosità, per vedere se capita che sento qualcosa. Esatto, sì. Invece per sentire l'RSA di Sassari, quella che c'è saggetta in via Piandanna, è 446 006.25. Vabbè, quello lì cos'è? Ma quello è il canale 1 della PMR? E mi sembra che è l'1, non mi ricordo più. Lì c'è il saggezza, l'infermiere, mi senti parlare. Che c'è lì? Perché io lì sentivo, deve essere stato qualche ditta commerciale che facevano, c'era un periodo, per un bel po' di tempo, per mesi, sentivo qualcuno come se stesse, dice porta questo, non so, questo materiale in un certo posto, non lo so com'era, una ditta deve essere quella che lavora col PMR. Quello 006 dove c'è saggezza e l'RSA in pratica. Invece la vita che stai dicendo tu sul canale 1 risulta del PMR, Fiume Santo, è capito l'aereo? Però anche male ora, perché non sono male io. Adesso siete l'infermiere. Da un piano all'altro. Quella che l'infermiera è? Sì, non cambiamo. 4-6, ma hai detto? Voi? 006.25. E quello è il canale 1. 006.25. Quello è il canale 1. Canale 1 quello è. E com'è, cos'è? L'RSA, così hai detto? Anche loro usano questo radiolino qua per lavorare. Sì, usano quello, non piano all'altro, in pratica. Capito? Ci ho parlato un sacco di volte io con quelli là. Figurati, non mi avevo detto, ma che sei, è fatto solo, adesso mi ricordo il nome, dalla saggetta mi ha detto, io ho risposto, ancora vivo dottor Bidau, gli ho detto, e tu mi hai fatto, come fai a conoscerlo, ho detto, c'ero 5 anni lì, gli ho detto, quando ce l'avevo fatto ero ricoverato, ho detto, vuoi che lo conosco a tutti lì, tutti i giorni, ho detto, tutti i giorni lì a trovare il fratello, mattina e sera, via che la segretaria aveva detto che c'è, quella che c'è giù, ha detto al bar, al bancone, mi conosco tutti, gli ho detto. Ecco, con il ricevitore voglio provare se le sento, vedete, va bene, non adesso, caso mai, in qualche momento, quando ho meno cose da fare. Ascolto, vediamo un po', vabbè, comunque, buona sapersi, dai, così, tanto per fare ascolto, più che altro, con ricevitore. Usano i blondi. Aspetta, lei fa un attimo. Ok.